ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte, traduzione di Margherita Giacobino. 1801. Sono appena ritornato da una visita al mio padrone di casa, il solo e unico vicino dal quale sarò infastidito. Che bella zona è questa! In tutta l'Inghilterra non credo che avrei potuto trovare un altro posto così totalmente distaccato dal trambusto della vita sociale. Un perfetto paradiso per misantropi, e il signor Heathcliff e io siamo la coppia giusta per spartirci questa desolazione. Che tipo interessante. Certo, non immaginava quale simpatia mi ha suscitato in cuore quando, avvicinandomi a cavallo, ho visto i suoi occhi neri ritrarsi sospettosamente sotto le sopracciglia e quando le sue dita, mentre annunciavo il mio nome, si sono sprofondate risolutamente sotto il panciotto. «Signor Heathcliff», dissi, per tutta risposta, un cenno con la testa. «Sono Lockwood». Il suo nuovo affittuario, signore. Entri. Quel entri fu pronunciato a denti stretti e con un tono che significava «Ma va al diavolo!». Credo proprio che questa circostanza mi spinse ad accettare l'invito. Sentii interesse verso un uomo che sembrava ancora più esageratamente riservato di me. «Joseph, prendi il cavallo del signor Lockwood e porta su del vino». «Joseph...» Era un uomo anziano, anzi vecchio, molto vecchio forse, benché robusto e vigoroso. «Ecco qui la servitù al completo, suppongo», fu la riflessione che mi suggerì quel duplice ordine. «Non c'è da stupirsi che l'erba cresca sul selciato e che a pareggiare le siepi provveda unicamente il bestiame. Cime tempestose, Wuthering Heights». È il nome dell'abitazione del signor Heathcliff e Wuthering è un'espressione provinciale per indicare lo sconquasso atmosferico al quale la sua posizione la espone durante il maltempo. Un'aria fresca e tonificante lassù la devono avere in qualunque stagione, questo è certo. Dall'eccessiva inclinazione di alcuni miseri abeti in fondo alla casa e da una fila di sparuti spini che protendevano i loro rami tutti dalla stessa parte, si può immaginare la potenza del vento del nord che soffia sulla cresta. Per fortuna, l'architetto è stato abbastanza previdente da costruire una casa solida. Le strette finestre sono profondamente incassate nei muri e gli angoli sono protetti da grosse pietre sporgenti. Prima di oltrepassare la soglia, mi fermai ad ammirare la quantità di sculture grottesche sparse sulla facciata e specialmente attorno alla porta principale, sopra la quale, in mezzo a una confusione di grifoni sgretolati e di putti impudenti, scoprì la data 1500 e il nome Herton Earnshaw. Avrei voluto fare qualche commento e richiedere al burbero proprietario una breve storia del luogo, ma il suo atteggiamento sulla porta sembrava esigere che io entrassi alla svelta o me ne andassi del tutto, e io non volevo spazientirlo prima ancora di avere visitato i sacri misteri della casa. Un solo gradino, senza nessuna anticamera o corridoio, ci introdusse nella sala. Qui la chiamano la casa per eccellenza e di solito comprende cucina e salotto. Ma credo che a cime tempestose la cucina sia costretta a ritirarsi in un altro quartiere, o perlomeno è dalle profondità dell'interno che sentì venire un chiacchiericcio e un acciottolio di utensili culinari e non vidi attorno al vasto camino alcun segno di cottura di arrosti, né lo scintillio di paioli di rame. In una nicchia, ad arco sotto la credenza, riposava un'enorme cagna da punta col pelo rossiccio, circondata da uno sciame di cuccioli che guaivano. Non ci sarebbe stato niente di strano se quell'ambiente e quell'arredamento fossero appartenuti a un semplice fattore del nord, dal viso caparbio e dalle gambe robuste, messe in risalto da calzoni al ginocchio e gambali. Un tipo del genere, seduto nella sua poltrona davanti al suo boccale di birra schiumante, si può vederlo dovunque, in un raggio di 5 o 6 miglia tra queste colline. Ma il signor Heathcliff è in singolare contrasto con la sua dimora e il suo stile di vita. Il suo aspetto è quello di uno zingaro scuro di pelle. Il modo di vestire e le maniere sono quelle di un gentiluomo, cioè, perlomeno, quanto può esserlo qualunque signorotto di campagna. Un po' trasandato, forse, ma la sua trascuratezza non gli nuoce, perché ha una bella figura dritta ed è piuttosto sulle sue. Qualcuno potrebbe sospettare in lui un certo grado di orgoglio di bassa lega, ma una corda di simpatia in me mi dice che non è nulla del genere. So per istinto che il suo riserbo nasce da un'avversione per le manifestazioni plateali di sentimento e per le esibizioni di reciproca cortesia. Amerà e odierà ugualmente senza darlo a vedere e riterrà una specie di impertinenza essere ricambiato nel suo amore o odio. Andai a sedermi all'estremità del focolare, dalla parte opposta verso cui si dirigeva il padrone di casa, e cercai di riempire una pausa di silenzio accarezzando la cagna madre, che aveva abbandonato la sua prole e con fare da lupa avanzava furtivamente verso i miei polpacci, col labbro sollevato sui denti bianchi pronta a mordere. La mia carezza provocò un lungo ringhio gutturale. «Sarà meglio che lasci stare il cane», brontolò all'unisono con lei il signor Heathcliff. «Non è abituata a essere coccolata. Non è bestia da salotto». Poi, dirigendosi a grandi passi verso una porta laterale, gridò di nuovo «Joseph!». «Joseph!» borbottò indistintamente nelle profondità della cantina, ma non diede segno di voler salire. Così il suo padrone si tuffò giù da lui, lasciandomi vis-à-vis con la malefica cagna e un paio di irsuti e torvi cani da pastore che insieme con lei si divisero il compito di una gelosa sorveglianza di ogni mio movimento. Non avendo alcun desiderio di entrare in contatto con le loro zanne, rimasi immobile, ma immaginando che non avrebbero capito degli insulti non verbali, ebbi la pessima idea di lasciarmi andare a una serie di smorfie e sberleffi rivolti al terzetto. Alcuni aspetti della mia fisionomia irritarono la signora a tal punto che esplosi in una furia improvvisa e mi saltò sulle ginocchia. La ributtai giù e mi affrettai a mettere il tavolo fra me e lei. Questo gesto aizzò l'intero sciame. Una mezza dozzina di demoni a 4 zampe di varie taglie ed età saltò fuori da covi nascosti e si precipitò verso il bersaglio comune. Per fortuna, una delle abitanti della cucina, una dama robusta con la gonna rimboccata, le braccia nude e le guance arrossate dal fuoco, irruppe nella mischia brandendo una padella e usò quell'arma e la sua lingua con tale efficacia che la burrasca si acquietò come per magia. E quando il padrone apparve, sulla scena non rimaneva che lei, ansante come il mare dopo un forte vento. «Che diavolo succede?» domandò lui, guardandomi in un modo che mi indispose alquanto dopo quel trattamento in ospitale. «Che diavolo davvero?» brontolai. Tanto varrebbe lasciare uno sconosciuto in compagnia di un branco di tigri. Non danno fastidio a chi non tocca nulla, affermò lui appoggiando la bottiglia di fronte a me e rimettendo a posto il tavolo. È giusto che i cani facciano da guardia. Un bicchiere di vino? No, grazie. Morsicato, per caso? Se lo fossi stato, avrei lasciato il mio sigillo sul colpevole. Heathcliff sogghignò, rilassandosi. Su, disse. Si è agitato, signor Lockwood. Forza, prenda un po' di vino. Gli ospiti sono una tale rarità in questa casa che io e i miei cani, lo ammetto, non sappiamo più come vanno ricevuti. Alla sua salute, signore. Prima di tornare a casa, mi rianimai talmente da proporre un'altra visita per il giorno dopo. Era evidente che non desideravo una replica della mia intrusione. Ciò nonostante, ci andrò. È incredibile quanto mi sento socievole se mi paragono con lui. Il pomeriggio si annunciava freddo e nebbioso e dopo una camminata di 4 miglia sono arrivato al cancello del giardino di Heathcliff appena in tempo per sfuggire ai primi soffici fiocchi di una nevicata. Sulla desolata sommità della collina la terra era indurita, nera e gelata, e l'aria mi faceva rabbrividire in tutto il corpo. Dal momento che non riuscivo a togliere la catena, scavalcai il cancello, corsi su per il viottolo contornato da incolti cespugli di uva spina e bussai invano per farmi aprire finché le nocche mi fecero male e i cani si misero a ululare. «Sciagurati abitanti!» esclamai mentalmente. «Vi meritate l'isolamento perpetuo per la vostra villana inospitalità!» La neve cominciava a infittirsi. Afferrai la maniglia per provarci ancora quando un giovanotto senza giacca e con un forcone in spalla apparve in fondo al cortile. Mi fece cenno di seguirlo e dopo aver attraversato una lavanderia e un'area pavimentata che conteneva una carbonaia arrivammo infine nell'ampia, calda e accogliente stanza in cui ero stato ricevuto in precedenza. Un delizioso bagliore irradiava da un enorme fuoco in cui ardevano insieme carbone, torba e legna, e vicino alla tavola apparecchiata per un'abbondante cena ebbi il piacere di vedere la padrona, una persona di cui non avevo prima di allora sospettato l'esistenza. Feci un inchino e attesi, pensando che mi avrebbe invitato a sedermi. Lei mi guardò appoggiandosi allo schienale della sedia e rimase immobile e silenziosa. «Che tempaccio!» osservai. Lei non aprì bocca. La guardai e lei mi guardò a sua volta, o quantomeno fissò su di me 2 occhi freddi e indifferenti, cosa estremamente imbarazzante e sgradevole. «Si sieda», disse rudemente il giovanotto. «Lui arriverà subito». Obbedì. Poi mi schiarì la voce e lanciai un richiamo alla tremenda cagna che si degnò in questo nostro secondo incontro di muovere appena la punta della coda in segno di riconoscimento. «Un bell'animale!» ricominciai. «Intende dare via i cuccioli, signora?» «Non sono miei», disse l'amabile padrona con un tono ancora più scostante di quello che avrebbe potuto usare Heathcliff. «Ah, i suoi preferiti sono fra questi», continuai, voltandomi verso un cuscino seminascosto nel buio che pareva coperto di gatti. «Bei preferiti va a scegliere», osservò lei sprezzante. «Per mia sfortuna era un mucchio di conigli morti». Mi schiarì la voce un'altra volta e mi avvicinai al camino commentando di nuovo il brutto tempo della serata. «Non avrebbe dovuto uscire», disse lei alzandosi per raggiungere sopra la mensola 2 barattoli dipinti. Mentre prima era in penombra, ora potevo vedere bene la sua figura e il viso. Era snella e sembrava avere superato da poco l'adolescenza, una figura perfetta e il più delizioso visino che abbia mai avuto il piacere di guardare. Lineamenti minuti, molto aggraziati, riccioli biondi, o meglio dorati, sciolti sul collo delicato, e 2 occhi che sarebbero stati irresistibili se avessero avuto un'espressione amabile. I barattoli erano troppo in alto per lei, quindi mi mossi per aiutarla. Ma lei mi si rivoltò contro come un avaro contro qualcuno che tentasse di aiutarlo a contare il suo oro. «Non ho bisogno del suo aiuto», disse in tono brusco. «Posso prenderli da sola». «Le chiedo scusa», mi affrettai a replicare. «È stato invitato per il tè?» chiese allacciandosi un grembiule sopra il semplice abito nero e tenendo un cucchiaio pieno di foglie di tè sospeso sopra una teiera. «Sarò felice di prenderne una tazza», risposi. «È stato invitato?» chiese di nuovo. «No», dissi con un mezzo sorriso. «Lei è la persona giusta per farlo». Lasciò cadere tutto, il tè e il cucchiaio, e si mise a sedere imbronciata, con la fronte corrugata e il rosso labbro inferiore che sporgeva, come quello di una bambina che sta per mettersi a piangere. Nel frattempo, il giovanotto si era gettato addosso una giacca decisamente logora e se ne stava diritto davanti alla fiamma, guardandomi dall'alto in basso con la coda dell'occhio, proprio come se tra noi corresse un'ostilità mortale invendicata. In assenza di prove certe sulla sua condizione, decisi che era meglio astenermi dal notare il suo curioso comportamento e 5 minuti dopo l'ingresso di Heathcliff mi sollevò in parte dal mio stato di disagio. «Vede, signore, sono venuto come promesso», esclamai assumendo un tono cordiale, «e temo che il maltempo mi tratterà qui per una mezz'ora buona se lei mi offre rifugio». «Mezz'ora?» disse scuotendosi i bianchi fiocchi dagli abiti. «Mi domando perché lei se ne va in giro sul più bello di una tempesta». «Ti decidi a fare il tè?» domandò quello con la giacca logora, spostando il suo sguardo feroce da me alla giovane signora. «Deve prenderlo anche lui?» chiese lei rivolgendosi a Heathcliff. «Allora, lo prepari o no?» fu la risposta, pronunciata con una violenza che mi fece trasalire. Il tono di quelle parole rivelava una natura autenticamente malvagia. Non me la sentivo più di definire Heathcliff un tipo interessante. Terminati i preparativi, mi invitò, dicendo «E ora, signore, accosti la sua sedia». E tutti quanti, incluso il giovane bifolco, ci sedemmo attorno alla tavola. Mentre consumavamo il nostro pasto, regnò un austero silenzio. Pensai che se ero stato io a guastare l'atmosfera, era mio dovere cercare di rimediare. «È strano», cominciai nell'intervallo fra la prima e la seconda tazza di tè. «È strano come l'abitudine possa formare i nostri gusti e le nostre idee. Molti non immaginerebbero mai che si possa essere felici in un'esistenza di così totale isolamento come la sua, signor Heathcliff. Io invece sostengo che, circondato dalla famiglia e con la sua amabile signora come nume tutelare della casa, la mia amabile signora?» mi interruppe con un ghigno quasi diabolico. «Dov'è la mia amabile signora?» «La signora Heathcliff, sua moglie, intendo dire». «Ah, sì, lei vorrebbe dire che lo spirito di mia moglie è diventato il nostro angelo custode e vigila su cime tempestose, anche se il suo corpo non c'è più, è così?» Accorgendomi di avere commesso un grosso errore, cercai di rimediare. Poi ebbi l'illuminazione. Questo zoticone al mio fianco, che beve il tè in una scodella e mangia il pane con le mani sporche, deve essere suo marito, il giovane Heathcliff, naturalmente. Ecco il risultato dell'essere sepolta viva. Si è buttata via con questo bifolco, semplicemente perché non sapeva che esistessero uomini migliori. Un vero peccato. «La signora Heathcliff è mia nuora», disse Heathcliff, confermando il mio sospetto. Mentre parlava, lanciò nella direzione di lei uno strano sguardo, uno sguardo di odio. «Ah, certo, capisco. È lei il fortunato a cui è toccata la buona fatina. osservai rivolgendomi al mio vicino. Questo fu ancora peggio. Il giovane si fece paonazzo e strinse i pugni come se avesse tutta l'intenzione di saltarmi addosso. «Sfortunato con le sue congetture, signore», osservò il mio ospite. «Nessuno di noi due ha il privilegio di possedere la buona fatina. Suo marito è morto. Ho detto che è mia nuora, perciò deve avere sposato mio figlio. E questo giovanotto è non mio figlio, di certo». Heathcliff sorrise di nuovo, come se l'attribuirgli la paternità di quell'orso fosse uno scherzo troppo audace. «Il mio nome è Ayrton Earnshaw», ringhiò l'altro, «e le consiglierei di rispettarlo». «Non le ho mancato di rispetto», replicai, ridendo dentro di me della sua presentazione ufficiale. Conclusa la faccenda del tè, e dal momento che nessuno accennava a voler fare conversazione, mi avvicinai a una finestra per dare un'occhiata al tempo. Quel che vidi non mi rallegrò. L'oscurità stava calando prima del tempo, il cielo e le colline si confondevano in un turbine implacabile di vento e neve fitta. «Non credo che mi sia possibile tornare a casa senza una guida», non potei impedirmi di esclamare. «Ayrton, porta quella dozzina di pecore sotto il portico. Saranno sepolte dalla neve se le lasciamo nell'ovile tutta la notte. E mettici un asse davanti», disse Heathcliff. «Come devo fare?» continuai con crescente irritazione. Non ci fu risposta alla mia domanda. E guardandomi intorno vidi soltanto Joseph che portava dentro un secchio di porridge per i cani e la signora Heathcliff china sul fuoco intenta a bruciare un mazzetto di fiammiferi che erano caduti dalla mensola quando aveva rimesso a posto il barattolo del tè. Joseph, dopo aver deposto il suo fardello, gettò un'occhiata critica attorno alla stanza e gracchiò con voce stridente. «Come si fa a stare qua con le mani in mano mentre tutti gli altri sono fuori a lavorare? Ma con i buoni a nulla è inutile parlare. Non cambierai mai te e andrai diritto all'inferno, come tua madre prima di te». Immaginai per un istante che questo brano di eloquenza fosse diretto a me e non poco indispettito mi avviai verso il vecchio furfante con l'intenzione di gettarlo fuori a calci, ma la risposta della signora Heathcliff mi fermò. «Vecchio e ipocrita e maldicente», replicò. «Non hai paura che il diavolo venga a portarti via di peso quando lo nomini? Ti conviene di non provocarmi o chiederò come favore speciale che venga a prenderti. Fermati. Guarda qui», continuò, estraendo un libro lungo e scuro da uno scaffale. «Voglio mostrarti quanti progressi ho fatto nella magia nera. Presto sarò in grado di fare piazza pulita qui. La mucca rossa non è morta per caso e i tuoi reumatismi non si possono proprio contare fra le benedizioni della provvidenza». «Perfida, perfida!» boccheggiò il vecchio. «Che il Signore ci liberi dal male!» «No, reprovo! Tu sei un reietto! Vattene o ti farò davvero del male!» «Farò delle figurine in cera e argilla che vi rappresentano tutti. E il primo che passa i limiti...» «No, non te lo dico che cosa gli succederà, ma lo vedrai. Vai, ti sto guardando!» Pensai che il comportamento della ragazza fosse dettato da una specie di cupo senso dell'umorismo e ora che eravamo soli cercai di interessarla alla mia situazione. «Signora Heathcliff», dissi con fervore, «mi deve scusare se disturbo. Mi permetto di farlo perché con quel bel viso sono certo che lei sia anche di animo buono. Mi indichi qualche punto di riferimento per orientarmi nel tornare a casa. Non ho idea di come arrivarci. Prendere la strada che ha fatto per venire. rispose, sprofondandosi in una poltrona con una candela e il lungo libro aperto davanti a sé. È un consiglio sommario, ma è il migliore che possa darle. Allora, se verrà a sapere che mi hanno trovato morto in un pantano o in una buca piena di neve, la sua coscienza non le sussurrerà che un po' è anche colpa sua? E perché mai? Io non posso scortarla. Non mi lascerebbero andare nemmeno fino in fondo al muro del giardino, ma io non potrei mai chiedere a lei di mettere piede fuori di casa per me in una notte come questa, esclamai. Voglio solo che mi dica che strada devo fare, oppure che convinca il signor Heathcliff a darmi una guida. E chi? C'è lui, Earnshaw, Zila, Joseph e io. Chi vorrebbe? Non ci sono garzoni alla fattoria? No, siamo tutti qui. Allora ne consegue che sono obbligato a fermarmi. Su questo si metta d'accordo con il padrone di casa. Io non c'entro. Spero che questo le insegnerà a non fare più giri avventati su queste colline, risuonò la voce brusca di Heathcliff dalla porta della cucina. In quanto a fermarsi qui, non dispongo di stanze per ospiti. Se si ferma, dovrà dividere il letto con Ayrton o con Joseph. Posso dormire su una sedia in questa stanza, replicai. No, no, un estraneo è sempre un estraneo, ricco o povero che sia. Non mi piace lasciare il campo libero a qualcuno mentre io non sono di guardia. Questo insulto esaurì la mia pazienza. Con un'espressione di disgusto lo scostai e uscì nel cortile. Joseph era intento a mungere le mucche alla luce di una lanterna che io afferrai senza tanti complimenti e, gridando che l'avrei rimandata indietro il giorno dopo, mi precipitai al cancelletto più vicino. «Padrone, padrone, sta rubando la lanterna!» urlò il vecchio inseguendomi. «Su, Juno, su, Wolf, prendetelo, prendetelo!» Mentre aprivo la porticina, due mostri pelosi mi si avventarono alla gola gettandomi a terra e spegnendo la fiamma, mentre gli sghignazzi congiunti di Heathcliff e Ayrton diedero il tocco finale alla mia rabbia e umiliazione. Fortunatamente le bestie sembravano più inclini a stiracchiarsi, sbadigliare e agitare la coda che non a sbranarmi, ma non volevano saperne di lasciare che io mi alzassi e fui costretto a restarmene a terra finché i loro malevoli padroni non si degnarono di liberarmi. Quindi, senza cappello e tremante di collera, ordinai a quelle due canaglie di lasciarmi andare. Il mio stato di violenta agitazione mi causò un'abbondante emorragia dal naso. Mi sentivo malissimo, stordito, prossimo a svenire, e questo mi obbligò ad accettare di pernottare sotto il suo tetto. Lui disse a Zila di darmi un bicchiere di acquavite, poi si trasferì nella stanza interna, mentre lei, piena di compassione per le mie sventure, obbediva al suo ordine, il che mi diede un po' di ristoro, quindi mi scortò fino al letto.